La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 40. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. L'articolo 40 rappresenta la garanzia del diritto allo sciopero. È un articolo programmatico molto importante perché dobbiamo ricordare che precedentemente alla Costituzione lo sciopero era un reato, quindi era del tutto vietato. I costituenti discussero a lungo sull'opportunità di inserire il diritto di sciopero in Costituzione, ma la ritennero un'affermazione importante nell'ambito delle relazioni sindacali, delle relazioni lavorative. Ecco quindi che viene riconosciuto il diritto allo sciopero, però c'è la piena consapevolezza che lo sciopero non può essere incondizionato ed illimitato e quindi si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. Va fatta un'importante precisazione testuale, terminologica, sul diritto allo sciopero, perché l'articolo 40 riconosce soltanto il diritto a scioperare e non anche il diritto alla serrata. La serrata è l'esatto opposto dello sciopero, cioè è la facoltà, la possibilità del datore di lavoro di chiudere lo stabilimento. La serrata non ha copertura costituzionale, mentre lo sciopero è garantito nelle forme di legge. Che cosa significa nelle forme di legge? Significa che la legge deve contemperare le esigenze degli scioperanti con le esigenze invece dei cittadini di ricevere determinati servizi. La legge del 1990 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali cerca di trovare il corretto bilanciamento fra il diritto a scioperare e il diritto corrispondente dei cittadini a non essere eccessivamente penalizzati nei servizi pubblici che vengono erogati. Gli esempi sono evidenti e palesi: trasporti, sanità, servizi pubblici. Ovviamente in questi casi lo sciopero va effettuato nei limiti della legge.